I miei amici sono bravi, bravi a cucinare. Quando voglio take away li chiamo al cellulare. Sempre di buon umore, sarà che è naturale. I miei amici sono bravi, bravi a cucinare. E persone che vivono così e affrontano la vita come sul ring. Giriamo il mondo tatuati, ci credono dei vandali o dei criminali. Ogni scarabocchio ha un significato per più o meno tutti a parte l'aeroplano. È vero, quella volta ero un po' ubriaco, ma signora stia tranquilla, non sono cambiato. E il cielo è sempre più blu, oh, oh, oh. Persi nel verde qua giù, I miei amici sono bravi, bravi a cucinare. Quando voglio dei gamberi li chiamo al cellulare. Sempre di buon umore, sarà che è naturale. E i miei amici sono bravi, bravi a cucinare. Ho qualche amico un po' incostante, universitario ma non praticante. Suona il rullante come Travis Barker e legge le cartine come un cartomante. Il cielo è sempre più blu, persi nel verde qua giù. I miei amici sono bravi, bravi a cucinare. Quando voglio dei cammini li chiamo al cellulare. Sempre di buon umore, sarà che è naturale. I miei amici sono bravi, bravi a cucinare. Ci troviamo persi qua su, come schimesi negli igloo. E mi chiedo cosa di più bello c'è se non trovarmi tutto perso a fare niente. Come con zero gradi, con i piedi sul parquet, come una sala da cinema di un hotel. Senza un futuro nelle mani, ma con in mano un razzo jet. Il cielo è sempre più blu, persi nel verde qua giù. I miei amici sono bravi, bravi a cucinare. Quando voglio dei gamberi li chiamo al cellulare. Sempre di buon umore, sarà che è naturale. I miei amici sono bravi, bravi a cucinare. Take away, take away, take away, e prendo take away e volo fly away.